Han lemingue caffè latino. Guigna Belzebu. Hombre, non sei sportivo. Ma il mio cuore piange al ritmo del bongo. E la bestia che si agita in me sta buffandosi di uova di lompo e chardonnay. Che ormai fanno parte di